vento, tocca lo sguardo lungo, svegliati che sta arrivando il tempo del cambiamento. Stanno scappando tutti, inseguono la loro ombra, le mani prese nel sacco, per troppo tempo nella vergogna. Il falegname e la legna la spaccano con asce nuove, e povero è colui che cade sotto le sue piaghe. Preparati al risveglio, che sta nascendo un nuovo sole. La notte porta consiglio a chi ostinato cerca la luce. Stanno tutti affogando i senza fiato che giocavano all'otto. La ruota gira per tutti, la loro strada è un binario morto. A forza di sputare, la loro gola è uno specchio rotto. Povero è colui che non rispetta il proprio patto. Preparati al risveglio, che sta nascendo un nuovo sole. La notte porta consiglio a chi ostinato cerca la luce. Scappando tutti, inseguono la loro ombra, le mani prese nel sacco, per troppo tempo i piedi in una tomba. I falegnami e la legna la spaccano con asce nuove, e povero è colui che cade sotto le sue piaghe. Preparati al risveglio, che sta nascendo un nuovo sole. La notte porta consiglio a chi ostinato cerca la luce. Sciogli i tuoi capelli, tu che hai lo sguardo lungo, svegliati che sta arrivando il tempo del cambiamento. Che stanno dando sono l'annuncio della loro agonia. Gli restano solo le chiavi della più bieca vigliaccheria. Preparati che il giorno non ha bisogno dell'ignomia. Povero è colui che non ha gli occhi, che non conosce la via. Preparati al risveglio, che sta nascendo un nuovo sole. La notte porta consiglio a chi ostinato cerca la luce.